Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Innanzitutto mi sono svegliato e avevo più di 100 messaggi e telefonate, ho detto che cavolo ho combinato a sto giro, che è successo? E praticamente mi ha riempito di orgoglio, ecco, quando sono andato su internet e ho visto quello che ha detto Soyer. È perché Kartika è un nome indonesiano che vuol dire coraggio, perché la mamma di Kartika è indonesiana. La prima parola che ha detto mio figlio è stata Terima Kasih, che in indonesiano vuol dire grazie, perché abbiamo anche con noi è sempre di tutto una tata indonesiana. Ripeto, mi inorgoglisce, ha detto, come ha ben spiegato, sarebbe stato facile dire altri nomi più importanti, ma magari gli è piaciuto soprattutto il mio primo anno dell'Inter e chi ci metteva anche il cuore, non solo le qualità che erano chiaramente alla luce degli occhi meno importanti le mie di altri giocatori. Quindi questo fa capire ai tifosi dell'Inter che capisce di calcio ed era ben informato. Mi piace un sacco Simply the Best, Tina Turner. Ciao Pierluigi Pardo, come va? Ma a sentire Ventola benissimo. Sai, io vorrei chiedere a Toir, ma tu che cosa ti ricordi del primo anno di Ventola all'Inter? Ma no, ma questa è una meravigliosa storia, è un meraviglioso segno dei tempi, nel senso che sì. C'è Anna Capella. Allora, tutto nasce qualche giorno fa quando il nostro produttore dice, ma scusate, ma abbiamo la dottoressa Capella che sta facendo il moto mondiale a Phillip Island, perché non la mandiamo sulle tracce di Toir? Ho detto, che grande idea, mandiamola, tiki-tachiamo, eccetera. L'abbiamo mandata lì per fare questo reportage, lei fa questa intervista a Toir. E come si fa a dire di no ad Anna Capella? Esatto, una chiacchierata informale, perché poi ovviamente ci sono ancora dei ruoli e credo che questo sia stato il motivo della non intervista ufficiale da parte di Toir. Mi sembra una cosa anche tutto sommato molto, molto sensibile, no? Nei confronti di Moratti, degli equilibri, quindi una cosa che ho interpretato in maniera positiva. Dice questa frase, che è una frase che sicuramente penserà, io non penso che abbia barato, non ce ne sarebbe stato il motivo, e questa cosa fa il giro del mondo. È proprio un segno di come, no, i tempi sono legati così. Ventola, che ha ricevuto questi 100 messaggi stamattina a Los Angeles, insomma, va bene così, insomma, proprio è un esempio plastico della, sì, dell'attività. Ventola, Kartika, Toir, Anna Capella, mi sembra tutto meraviglioso, mi sembra veramente tutto meraviglioso. 800 24 00 24, perché qui sul circo a tre piste vale ovviamente qualunque cosa. In fondo sarebbe stata, Pierluigi, volendo e tirando le somme, la settimana viola, non solo perché insomma il tempo su Milano giustifica scaramanzie e colori strani, tutt'altro. La Fiorentina ha rimontato e smontato la Juve, ha dato spettacolo con il Pandurì, che certamente non è una squadra di livello, però ha approcciato in modo serio l'Europa League. Avremmo voluto chiamare Pradè, anzi ci abbiamo provato, anzi lo convochiamo ufficialmente. 800 24 00 24, Daniele Pradè, ci sei? Se ci sei, batti un colpo di telefono, magari ti facciamo i complimenti, mica ti rompiamo le scatole, giuro. Assolutamente. Prima o poi tornerà Mario Gomez nella Fiorentina, un bene o un male? Beh, un bene sicuramente, anche perché sì, sicuro? Sì, sicuro, ma non scherziamo, assolutamente sì. Gomez Rossi mi sembra una grande coppia d'attacco. Se c'era un problema l'anno scorso che aveva la Fiorentina nella sua stagione assolutamente magica, era la mancanza di un grande attaccante da 20 gol, anche se Toni comunque aveva fatto un'ottima stagione e una prima punta fisica, quindi Gomez assolutamente serve. Io penso che Gomez, l'assenza di Gomez è uno dei motivi di qualche punto perso qua e là dalla Fiorentina in questa prima parte della stagione, non certo del contrario, quindi assolutamente una buona notizia. No, grande Fiorentina, mi piace molto come hanno approcciato l'Europa League nella maniera più giusta, perché è chiaro che questa è una competizione che all'inizio non ti dà grande adrenalina, le squadre sono scarse, il traguardo è lontanissimo, però se la cominci così con 3 vittorie poi puoi fare un po' di turnover, puoi gestire le energie, quindi può non pesarti tanto. E poi a febbraio-marzo vedi dove sei, in classifica, vedi quello che puoi fare, e poi comincia a diventare interessante da febbraio-marzo anche l'Europa League, perché certo, cominciano a essere incassi, diritti televisivi, visibilità internazionale. Una cosa che viene molto sottovalutata è la visibilità internazionale, cioè siccome siamo in mercato permanente, quindi i giocatori vengono comprati e venduti, più tu dai la possibilità ai giocatori di mostrarsi agli occhi degli osservatori internazionali che l'Europa League la guardano, ovviamente, e più si alzano i prezzi. Poi c'è un altro aspetto, l'Europa League può allenare anche per qualcosa di diverso e di più importante. Io ricordo la Siena del basket qualche anno fa, mi capitava di telefonare la domenica sera a Simone Pianigiani, allora allenatore di Siena: dove sei? Ma sono all'aeroporto di Mosca, nevica, è mezzanotte, sto per andare a Vladivostok. Ostrega, ma oggi è martedì. E beh, ma così ci alleniamo, così ci abituiamo alla fatica anche di queste cose. E Siena poi è diventata Siena. L'Eurolega non l'ha mai alzata, però ha vinto qualche scudetto, è diventata una squadra storica. 800 24 0024, numero verde. Adesso le orecchie di Pardo e per le vostre un appuntamento cult come il traffico, poi torniamo. Però se l'Inter dovesse chiamare io torno anche a piedi, è un po' dura a piedi, però ci torno volentieri. Ci torni volentieri. Tutti convocati. 800 24 0024, innanzitutto i convocati siete voi. Stiamo parlando di calcio con Pierluigi Pardo, poi avremo Coach Dan Peterson sul basket, non dimentichiamo che comincia la stagione di sci, insomma, non accusateci poi per favore di parlare solo di calcio, perché non è vero, questo è un falso storico. Continuiamo a parlare di calcio naturalmente, o a calcio e dintorni. Allora, abbiamo lanciato un appello pubblico per Pradè. Daniele Pradè, se ci sei, chiamaci, 800 24 0024, ne lanciamo uno anche per Mino Raiola. Mi interesserebbe parlare con lui, 800 24 0024. A parte il fatto che mi deve rifare il contratto, ed è un po' che non lo sento, mi sta un po' maltrattando, potrei anche cambiare procuratore, però vorrei chiedergli anche del tutor di Balotelli. Balotelli in collegio a Milano con il precettore, sembra una scenografia manzoniana per un giocatore abituato a fare di testa sua. Sì, sei tu il precettore di Balotelli? No, non sono io. Però è un segno che qualcosa non va, dai, al di là di tutto, che non sono soltanto farneticazioni della stampa o un eccesso di psicanalizzazione di questo ragazzo, che devo dire la verità, da qualche giorno mi pare, dopo il suo appello, i media stanno abbastanza lasciando in pace, quindi deve trovare lui la strada, ma io sono convinto, tifo per lui, spero che la troverà per essere ancora più forte, è già un grande giocatore, ma per essere ancora più forte deve forse fare un po' di ordine dentro di sé e farà ancora meglio, ma sarà ancora più felice. Questo è quello che penso dall'esterno, ripeto, poi non posso fare un psicanalista, perché non so farlo neanche di me stesso, quindi figuriamoci degli altri. No, io vedo soltanto un giocatore che ha avuto un po' di infortuni, forse un po' tanti infortuni, che vive qualche volta sull'orlo di una crisi di nervi. Vedo però un super giocatore sul quale si sta romanzando moltissimo, e qui non serve scomodare Manzoni. Oh, è arrivato Daniele Pradè, o forse no? Sei Daniele Pradè tu? Linea 2? Tutt'altro. No, non è Pradè. Andrea Sorrentino, Repubblica. Ciao. Esatto, sì, sono romano anch'io, però insomma. Però se vuoi puoi fare Pradetti, faccio le domande sulla Fiorentina, eh. Come stai, Torri? Eccolo lì, sentitelo. Vabbè. Sorrentino, bene, grazie. Sorrentino, dovete sapere che è un grande giornalista di carta stampata, eccetera, ed è un uomo che continua a rifiutare opportunità televisive straordinarie. Potrebbe rapidamente diventare un sex symbol, anche perché ha questa barba incolta ormai un po' medio orientale. Per alcuni lo sono già, quindi non ho ci credo, ma ancora di più, capito? Tu hai dei margini, hai del potenziale. Parliamo di cose serie. Sorrentino, che cosa vuoi che ne sappia Pierluigi Pardo? Noi ci siamo conosciuti in un posto che lui non frequenta, che lui non può nemmeno immaginare, il Giro d'Italia. Io conobbi Andrea Sorrentino al Giro d'Italia quando correva Coppi, mi sembra, no? C'era Coppi, sì. Di sicuro c'era ancora il povero Pantani, questo me lo ricordo benissimo, forse anche Coppi. Per cui io non smetterò mai di fare il tifo, ed ecco un altro eroe che allego nella mia galleria degli idoli. Senti, non sei tu comunque Andrea Sorrentino il precettore di Balotelli, non è Pardo, non sei neanche tu. Sai chi è? No, sono vari precettori e tutor, perché insomma stanno cercando di creare così un cuscinetto intorno a lui, perché poi il problema di Balotelli, lui si lamenta molto anche attraverso il suo procuratore, che si parla troppo di lui, delle sue cose, delle cose che fa fuori dal campo, e questo avviene per forza, perché quando sei un personaggio pubblico così in vista c'è anche il tuo privato in ballo. Il problema di Balotelli è quello che fa in campo. Mario Balotelli da giugno non sta bene, è un giocatore che non è ancora entrato in condizione. Siamo a 2 mesi e mezzo di stagione agonistica, il Milan ha giocato la prima partita il 20 agosto, Balotelli non è ancora entrato in condizione al 100%, ha avuto una miriade di infortuni. Questo è assurdo per un giocatore di 23 anni, e chi lo conosce poi, lo vedete Balotelli, è un pezzo d'uomo di 1,90 m con due spalle da corazziere, muscoli ovunque, è l'opposto dell'immagine dell'uomo cagionale. Agile, certo. Eppure sta sempre male. No, mi piace molto questa affermazione di Sorrentino, che secondo me dovrebbe fare televisione. No, perché a parte tutto, spesso su Balotelli si finisce subito a parlare di cose che col calcio c'entrano poco, no? Quindi l'etica, delle regole, una serie di valori che sono importanti, per carità, nella vita, ma in realtà la prima vittima delle balotellate è proprio Balotelli, così come la prima vittima delle cassanate è stato Cassano nella sua carriera, nel senso che comunque alla fine E poi la seconda vittima sono le squadre a cui appartengono, cioè nel caso di Balotelli il Milan e la Nazionale, che hanno in Balotelli l'uomo simbolo, quello che gli deve togliere le castagne dal fuoco, quello che deve risolvere i problemi, e questo è il problema del Milan e della Nazionale, che si affidano a un numero uno che probabilmente non ha la stoffa ancora per essere il numero uno e dovrebbe essere affiancato da un altro numero uno in campo. Sì, ricordo, però valeva anche per esempio l'anno scorso per Osvaldo. Quando tu fai degli errori e poi fra codice etico e squalifiche alla fine ti perdi 8-10 giornate di campionato ogni anno, e sono occasioni, sono 5-6 gol in meno che fai, cioè cambia completamente tutto. Balotelli con quella squalifica contro il Napoli già ha perso delle occasioni per poter essere più in alto nella classifica cannonieri e per poter aver avuto un impatto completamente diverso nel campionato del Milan. Quindi è molto saggio la cosa che hai detto, perché se no ci riporta su un piano strettamente tecnico, che poi è il vero problema, e ci fa capire che la vittima di Balotelli è Balotelli quando fa gli errori. Sì, però posso aggiungere anche il fatto che è uno tra i tanti, perché in questo momento al Milan in pochi stanno bene. Spesso siamo abituati nelle ultime stagioni a vedere giocatori che scompaiono nelle prime nebbie d'autunno o nelle sabbie mobili della vasca di sabbia di Milanello, per poi ricomparire magari a primavera. Dov'è finito De Sciglio? Dov'è finito El Shaarawy? Perché Balotelli va bene, anzi non lo chiamo più il numero 45 perché quel nome non posso dirlo per contratto, ma De Sciglio posso dirlo, El Shaarawy posso dirlo, posso andare avanti anche con l'elenco dei lungo degenti rossoneri. Allora mi spiegate perché al Milan è così, invece poi tifosi dell'Inter fate gli scongiuri, nell'Inter in pochissimi si infortunano, con Mazzarri in generale nel Napoli nelle ultime stagioni Mazzarri gioca in maniera molto realista con 11 titolari, altri rincalzi mirati eccetera, però vedo pochissimi infortuni, ad esempio alla corte di Mazzarri. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Tra l'altro El Shaarawy, De Sciglio e Balotelli sono tutti ragazzi sotto i 23 anni, ed è strano ed è grave che così giovani abbiano così tanti problemi muscolari, ossei, insomma evidentemente c'è qualcosa che non va anche in quel reparto lì, nel comparto medico della preparazione atletica. Poi ogni volta che si fa questo discorso i responsabili dei rispettivi settori si arrabbiano moltissimo. E quindi... lascia che si arrabbino, Andrea, cioè, Pato è stato, secondo me, è stato rovinato, perché Pato era un giocatore meraviglioso, è stato rovinato. Tu arrivi lì, cominciano a toglierti il dente del giudizio, a metterti bite in bocca. Mi risulta che una volta Calazze l'hanno dovuto tenere, perché se no ne menava quattro, dopo che era stato infortunato a lungo, avevano fatto queste cure un po' alternative, si era alzato dal lettino dello spogliatoio dopo un allenamento, e tenetemi perché se no vi faccio il nodo. Insomma, bisogna anche dirle le cose, poi chi vuole arrabbiarsi si arrabbi, tanto siamo qui, 800 24 00 24, possono pure chiamarci o venirci a trovare in via Monterosa, non abbiamo problemi. Attenzione, siamo agli indirizzi, Ma sì, tra l'altro io spesso buco lì, quindi magari danno una mano col crick come ha fatto l'altra sera Genta in maniera straordinaria. Allora, c'è un problema medico e di preparazione atletica al Milan abbastanza evidente, e c'è da parecchio, a parte che poi Balotelli si fa male anche in nazionale, però evidentemente delle cose partono dal Milan, c'è qualche problema da risolvere sicuramente. Pardo? Sì, no, questo è evidente, insomma, mi sembra chiaro, e mi sembra che sia successo troppo spesso in questi anni per non considerarlo una tendenza, così come mi sembra chiaro che per esempio Mazzarri da questo punto di vista ha avuto una percentuale di infortuni negli anni di Napoli, e mi sembra che insomma anche all'Inter... Però la sta sporcando all'Inter, fateci caso, all'Inter sono iniziati un po' di infortunicchi, tra cui lo stesso Campagnaro, che è pure un fedelissimo di Mazzarri. Evidentemente l'aria della Pinetina è un po' particolare, perché l'Inter adesso ha avuto Kovacic a inizio stagione, poi Alvarez, poi Campagnaro, qualcun altro che adesso mi sfugge ma me lo ricorderò, insomma lo stesso, Samuel ha avuto problemi da anni, tornato, si è fatto male, sorry, ma secondo te Moratti, se chiedessero a Moratti chi è il suo giocatore del cuore, il Ventola di Moratti, chi è? Facile. Tu lo conosci? Facile. Il Cino, ovviamente, il Cino Recoba, secondo me. No, secondo me no. Al punto che ieri sera l'ha inserito nel suo 11 ideale in attacco al fianco di Ibrahimovic e Ronaldo. Secondo me è Ronaldo. Non l'ha mai dimenticato. E Ronaldo dal suo tavolo da gambler, no? Ormai si è dato al poker, ha detto: "Oh, se vi serve sono qui, Si è aggiunto alla lista. Non è l'unico. Mi risulta, guarda, lo so proprio, una cosa personale mia, lo so per certo, mi risulta che negli ultimi tempi c'è una caccia grossissima al numero di cellulare di Toir dall'Italia. C'è un sacco di gente che cerca il numero di Toir, ve lo giuro. Da vari mondi, da vari paesi. Da tutto il mondo. Da vari continenti, da vari sport. Da vari sport. Chiedere ad Anna Cappella, Tra l'altro Toir ha parlato anche con Repubblica in settimana e ha detto un'altra cosa piuttosto allarmante, secondo me, per i tifosi dell'Inter, cioè che la sua idea per il futuro è il lancio massiccio dei giovani della primavera in prima squadra. Ecco, il che potrebbe... Senti, no, questo dell'Inter al momento non sa niente, dai. Non sa nulla, è un'operazione commerciale, i fini sono tutti da valutare, gli obiettivi sono tutti da valutare, quindi... Stiamo parlando del nulla. Toir dell'Inter, dell'Italia, del calcio italiano, non sa niente. Ciao tifosi dell'Inter, see you soon. See you soon. Eccolo. See you soon, Andrea Sorrentino. Lo vedremo a novembre, e la cosa importante da capire nei prossimi mesi sarà non tanto quanto capisca di calcio Toir, il che può essere anche relativo, ma sarà importante capire chi verrà chiamato a rappresentare l'Inter, la Toir, quali dirigenti, quali giocatori, ma soprattutto quali menti pensanti progetteranno il futuro all'Inter, dal punto di vista tecnico e da quello commerciale, che è un'altra spina. Lui ha detto: vengo quattro volte l'anno per fare il cambio di guardaroba, una primavera, una in autunno e poi le altre due a vedere come vanno le cose. Grazie Andrea Sorrentino. A voi, affetto, ciao. Pierluigi Pardo, Pier, stai lì, Sono qui, c'è Meda che adesso... C'è Guido? Sì, dai, te lo passo. Aspetta che ho la borsa. Che devo fare? Farmi la borsa di chi vince domenica. Ah, se corrono, se non c'è il tifone, se non c'è la nebbia, se non c'è la pioggia, domenica vince Marc Márquez e diventa campione del mondo perché Lorenzo fa terzo. Lorenzo fa terzo? Sei meraviglioso. Mi fai un altro favore, mi lanci la borsa? Dove te la lancio sta borsa? No, non la borsa dei soldi come al solito. Ho capito, l'appuntamento dai, con la borsa. Adesso l'appuntamento con la borsa. La borsa c'è, ci sentiamo tra poco. Tutti convocati. Chi vuoi convocare, Pardo? Pardo non vuole convocare nessuno, si è escluso anche lui, ha avuto paura. 800-24-0024, no, naturalmente sto scherzando. Molti cercano il numero di cellulare di Toir tramite Anna Cappella. Io mi accontento di quello di Anna. Pardo, me lo puoi mandare? Christian da Bergamo. Pardo, dove sei? Ma dai, Leonardo Trapani. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo, da un po' che vorrei essere convocato perché per la dichiarazione di Agnelli su Pogba. Oggi anche su quelle parte sulla Lega Calcio. Sì. Perché credo che da un po' che Andrea Agnelli vorrebbe, come dire, avere un maggiore introito dai diritti televisivi. Sì. E quindi penso che molte delle sue, chiamiamole battute, sono legate a questo fatto. Guardi, anche Leonardo, possiamo anche non usare delle ampie perifrasi, perché è una delle grandi, o forse la grande battaglia campale che vedremo nei prossimi mesi, cioè quella dei diritti televisivi e della vendita dei diritti televisivi all'estero. Molte volte abbiamo detto, con dovizia di dettagli particolari, grazie al Sole 24 Ore, a Marco Bellinazzo, che ci ha spiegato le cose per filo e per segno, con numeri e tutto quanto, la grande battaglia è questa, cioè le squadre inglesi sono ricche da morire, comprese le neopromosse, proprio perché c'è questa commercializzazione dei diritti televisivi all'estero che frutta loro un sacco di quattrini. In Italia il sistema è ben diverso, sappiamo come in Lega ci siano due fazioni, cioè c'è una maggioranza di governo, Galliani, Lotito, eccetera, c'è una minoranza cui appartiene, di cui è capofila la Juventus, Juventus che però è all'opposizione, e la battaglia campale si avvicina. Ecco. Sì, sì, sì, no, infatti volevo aggiungere un attimo che se vogliamo diventare, ritornare a essere competitivi in Europa, forse è meglio che le regole siano uguali per tutti, in tutti i paesi. Che se uno guadagna dal diritto televisivo 5 e l'altro 20, è difficile starci dietro. Io credo sia impossibile una gestione democratica delle risorse televisive all'estero, perché all'estero comprano quello che più gli piace, quindi non possiamo dire prendete il nostro campionato a parità di soldi di quello inglese, che dicono no, ci teniamo quello inglese, del vostro non me ne frega, non ce ne frega nulla. Sei tornato? Sì, sì, sono. Dove eri? No, ero qui. Aspettavo. No, devi dirmi dove eri, dove sei andato. Sono seduto da 25 minuti nello stesso posto. E perché non rispondevi? Ma non è vero, non mi avete chiamato. Cioè, appena mi avete chiamato ho risposto. Vabbè, comunque adesso questo è un dettaglio. No, io credo Me lo dici dopo? Che questa querella. Me lo dici dopo? Te lo dico dopo, sì. Va bene. Senti, c'è chi vuole il numero di Anna Cappella. Christian da Bergamo. No, perché molti mi ha scritto l'SMS, molti cercano un numero di cellulare di Toir tramite Anna Cappella. Io mi accontento di quello di Anna. Pardo, me lo può mandare? No, guarda, io pensavo io non ce l'ho il numero di Anna. Adesso chiamo Toir e mi faccio Anna Cappella. Sarebbe straordinario chiamare Toir, salve, sono un giornalista, giuro che se lo fai metto la tua foto vicino a quella di Maradona. L'intervista, no, grazie, vabbè, poi magari quando viene in Italia con calma. No, per caso avrebbe il numero della camera, questo sarebbe straordinario, vabbè. No, ti volevo dire questa cosa invece, fammi fare la persona seria, che ma quando, secondo me quando dietro a questa iniziativa della Juve di 7 squadre, sì, di cui si è parlato una ventina di giorni fa, c'è un discorso di riequilibrio politico. Ma certo, Pier. Lega. Non credo che ci sia un problema poi così grande dei diritti televisivi. Cioè, io non sono un esperto della materia, ma non mi sembra che ci siano al momento molte alternative. Sai, quel contratto hanno firmato tutti. Sì, ma sono questioni che comunque noi nella nostra beata ignoranza capiamo poco, e vogliamo rimanere nella nostra beata ignoranza, perché sono questioni molto tecniche, molto anche molto noiose. È evidente che ci sia una battaglia di potere in atto, ed è evidente, questa questione invece più interessante, che questa battaglia di potere in atto ci sia da molti anni, perché la Juventus all'opposizione ci sta scomoda. Assolutamente, questo è anche normale, insomma, la Juventus all'opposizione è già una notizia, diciamolo serenamente, così come Milan e Inter, sono chiaramente le società che nel calcio italiano pesano di più dal punto di vista del bacino d'utenza. Certo, certo, città, certo, certo. Però sinceramente io non credo che lì poi alla fine ci saranno grandi stravolgimenti, la mia sensazione è che poi alla fine si troverà un punto d'equilibrio. Ma un punto di equilibrio in Italia si trova sempre, Pierluigi, poi bisogna però contare morti e feriti che restano sul campo, perché io credo che invece sarà una battaglia che si risolverà come al solito, si risolvono tutte le cose in Italia, però sarà una battaglia abbastanza feroce, almeno nei toni, stiamo solo aspettando così. Tu sai che l'Audible è una cosa fantastica, posso fare una digressione di 28 secondi, ieri sera alle Iene è andata in onda un'inchiesta di un quarto d'ora sul porno in America, stavo guardando le curve dell'Audible, non altro, parte al 7,6% e arriva in 12 minuti al 18,8%. Cioè, a proposito delle cose che io l'ho registrata, figurati te, che piacciono agli italiani, vabbè. Perché poi facciamo i fenomeni, no? Facciamo i fenomeni, no? Ma il gossip, no? Ma non ci interessa come è vestita Melissa Satta quando è al Tikitaka, no? Ma che ce ne frega della scolatura della D'Amico? Poi siamo tutti lì a guardare, e questo ci rende un paese di meravigliosi cialtroni. Io almeno lo dichiaro, io dichiaro che a me tutte queste cose interessano da morire, anzi da quando facevo il programma la domenica il mio primo commento era sul vestito di Ilaria D'Amico. Non stare zitto, rispondimi a questo, stavamo parlando stavamo parlando invece di Juventus, e allora io voglio leggere due dichiarazioni di oggi, una è di Marotta: le voci su Prandelli al posto di Conte in futuro sono assolutamente infondate, sono voci di mercato. Conte ha un contratto che scade nel 2015, con lui abbiamo un ottimo rapporto, siamo molto contenti del suo lavoro, per cui immaginare che ci stiamo dedicando alla ricerca di un altro allenatore è cosa fuori da ogni verità. Marotta. Agnelli: smentisco che Exor sia alla ricerca di partner esteri, qualsiasi ipotesi abbiate letto è destituita di ogni fondamento. Traduco: probabilmente Prandelli ci interessa, nel caso in cui Conte, con cui i rapporti non sono in questo momento idilliaci, forse siamo agli sgoccioli, forse ha una separazione consensuale, forse se ne andrà, Prandelli ci interessa. Quanto all'altra dichiarazione, quella di Agnelli, se qualcuno bussa alla porta noi rispondiamo al citofono. Sì, io penso che questo valga per tutti, la seconda frase, quella sui partner esteri, cioè io credo che oggi in Italia purtroppo non ci sia, ma forse è anche normale ed è giusto così, non ci sia una società che se dovesse ricevere la telefonata da un potenziale partner straniero butterebbe giù il telefono, cioè le risorse servono come il pane, il tempo del presidente che ha il 100% del capitale sociale della società mi sembra un tempo ampiamente finito, non solo in Italia ma nel mondo, c'è mezzo calcio inglese che è nelle mani degli stranieri, per cui non ci trovo niente di male. È chiaro che Agnelli non può dirlo, ed ha anche ragione Agnelli quando dice probabilmente che la Exor non sta cercando, è il famoso discorso, tu che ci provi oppure... sei tu che ci provi con una che ti piace, oppure se questa ti chiama rispondi al telefono, è un po' quello il concetto, no? Però credo che faccia parte della logica delle cose. Sul discorso dell'allenatore io penso che onestamente sia ancora molto presto, che la tregua con Agnelli dell'estate scorsa sia stata una tregua armata non ci sono grandi discussioni, e ce l'hanno svelato le conferenze di Conte, piene di nervosismo. Detto questo, io non me la sento di dire che sicuramente Conte andrà via, perché credo che da qui a maggio possono succedere 800 cose. Conte sicuramente ha voglia di investimenti che quest'anno non ha avuto da parte della Juve. Come non ha avuto da parte della Juve? Ma cosa stiamo dicendo? Pier, ma gli hanno preso Tevez, Llorente, e gli ha rinforzato la squadra. Llorente l'hanno preso a parametro. Vabbè, lascia stare il parametro, anche Van Basten l'aveva preso a parametro. Anche Van Basten il Milan l'aveva preso a parametro. Adesso non voglio bestemmiare, però. Llorente non l'ha preso Conte. Llorente l'ha preso facendo secondo me molto bene la Juve, nel senso che c'è stata un'opportunità di prendere un giocatore importante a parametro zero, l'hai preso. Ma e allora di che si lamenta? Beh, insomma, che ti ha andato via Matri, che ti ha venduto Matri, ma ci vogliamo credere? ci vogliamo, io no. Se volete, no, credere, io credo che alla fine pure. la cessione di Matri sia stata una cessione che a un certo punto è stata utile a Conte per poter perorare la sua battaglia e per poter mandare un messaggio. Giochini. Detto questo, che lui si aspettasse qualcosa di più sugli esterni, ad esempio, per me è vero, insomma, io. Poi, se se lo merita o se non se lo merita, se ci fosse stato o meno il budget per farlo, se fosse giusto più o meno accontentarlo, non lo so. Ma che Conte volesse qualcosa di diverso sugli esterni, io mi sento di poterlo sottoscrivere. Sì. Per cui poi io non so, non ero in quella famosa sala quando sono usciti poi con la stretta di mano, sciogliendo al volo tutta la tensione, quando era giugno, quindi non so che accordi avessero. A me sembra che siano 3 anni che Conte chiede più esterni, molti gliene hanno presi, molti anche su sua indicazione, e molti dei quali si sono rivelati dei flop, ma comunque. Ma io credo anche semplicemente che Conte, che ha fatto 2 anni straordinari, possa avere legittimamente dentro di sé, che ne so, un po' di invidia per Blanc. Ecco, Blanc è un allenatore che, diciamo, non è che ha dimostrato ancora moltissimo. Sicuramente ad oggi Conte ha dimostrato di più di Blanc, oppure ha dimostrato di più di David Moyes, l'allenatore del Manchester United. E magari Conte ha un po' di sana invidia nei confronti di questi signori che possono allenare Ibrahimovic, Cavani, Rooney. E allora la Juventus, da grande società, qual è? Gli dice: bene, invidia di questi, trovati una panchina da quelle parti. E poi i giocatori capiscono quando c'è un'area di questo tipo tra allenatore e società, e magari corrono quei 10 minuti in meno alla fine dell'allenamento. Ovviamente sto banalizzando e sto esponendo una posizione che è soltanto mia, però il mio pensiero è questo e lo dico. Pier, ci sentiamo lunedì, domenica? Un attimo solo, domenica, no, devo dire, secondo me non è così. Cioè, loro sono in una condizione, non sono al punto di rottura. È chiaro che non c'è il feeling, l'idillio straordinario che c'era 2 anni fa, ma non c'è neanche il punto di rottura, un po' perché Conte. L'offerta da Paris Saint-Germain non l'ha avuta, un po' perché la Juve, un allenatore migliore di Conte in questo momento, non lo può trovare. No. Quindi è chiaro che stanno bene insieme, poi c'è anche l'affetto, poi ci sono anche i rapporti, non è che si detestano, si amano. Però è un amore litigarello in questa fase, e credo che un po' di segnali di questo tipo di situazione siano arrivati. Ma la Juve, Conte e la Juve hanno tutto il tempo per rimettere cose a posto, secondo me. Oppure per firmare una separazione consensuale, questo lo sapremo solo vivendo. Ciao Pier. Ciao Pierino. Strade. Ora ci stiamo preparando per una competizione molto importante, che è quella del Mondiale. Poi in futuro sicuramente le strade cambiano sempre per tutti, quindi non si sa mai che ci si possa ritrovare nel club. Tutti convocati. Se intanto c'è chi scherza su Twitter e ci piace, Marcello che scrive: oltre al ciclone Ventola sembra che io voglia intitolare il nuovo stadio Felice Centofanti. Sì, intanto vediamo se il nuovo stadio riesce a farlo. Questa appartiene alle varie ed eventuali, ancora a vedere chi arriva qui e costruisce uno stadio. Franco Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Centa, complimenti a lei. Grazie. E alla new entry del dottor Pardo. Sì. Dunque, io ho detto alla sua collaboratrice di fare Juventus ed Inter, cominciare con Juventus. Sì. La trasmissione di ieri, per resto sempre greggia, si è svolta presso completamente sul discorso del rigore no nella Juventus, la partita di Coppa, così Champions League. Quindi conclusione: 40 minuti di trasmissione, intelligente come sempre le sue, trattanti soltanto il problema, c'era cioè rigore, il braccio era mezzo, lo trovo un pochino esagerato. Sì, se fosse non stato so così, lei è d'accordo su Franco, questo. Io sono d'accordo sul fatto che se fosse stato così sarei stato d'accordo. Il fatto che non mi sembra sia stato così, perché no, mi sembra che abbiamo parlato di, insomma, è intervenuto Cesari, ha spiegato la sua, ha detto cose anche molto, molto interessanti. Detto questo, abbiamo parlato della partita dalla Juventus a Madrid, importante sotto molti aspetti, compreso quello dell'atteggiamento che la Juventus ha tenuto, che è stato eccellente. Quindi io poi ho anche detto, avevo pronosticato 3-1 per il Real, ho detto mai pronostico da parte mia fu più sbagliato, li sbaglio sempre, però questo, nonostante ci abbia preso o quasi, non rispecchiava il mio pensiero, perché la Juventus ha giocato molto meglio del Real. Plinio Arezzo, buonasera. Io sono un tifoso dell'Inter, sì. Foraneo, toscano, sì. Per noi il nemico non è il Milan, ma è la Juventus, naturalmente. Volevo accennare al discorso di Toir, diciamo, è un esperimento nuovo per il calcio italiano, è entrato in una grande squadra. D'altra parte l'Inter tradizionalmente si chiama internazionale perché per prima volle importare giocatori stranieri, quindi ha una sua storia. Il calcio non è più uno sport, è un affare, e vediamo un po' come giocherà questo fatto della presenza di un grosso operatore internazionale. Chiaramente devo dire, come tifoso sono rimasto un po' deluso, perché siamo tutti affezionati a Moratti e alla famiglia Moratti per i trionfi che ci ha dato. Ma le volevo raccontare, se posso, una piccola storiella che sta sorgendo qui ad, in Toscana dopo la partita di Firenze di domenica. E dice più o meno così: ma che bravi sono stati i simpatici Gigliati, quattro pere gli hanno dato ed il conte han liquidato. Quelli ha fatto il gran petito e Buffon ha stordito, mentre il bravo presidente, con uscite sorprendente, fa discorsi da coglione che su piedi di cartone. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Coach. Ciao caro amici sportivi, buongiorno a tutti. Senti, mi ricordi per favore, perché mi hanno scritto molte mail chiedendomi qual è il titolo di questa canzone che tu canti. Ah sì, sì, sì. Dico in inglese, poi dico in inglese. In prendete appunti. The Wreck of the Old 97, l'incidente del vecchio 97, che è la prima canzone che ho sentito nella mia vita, ok? Proprio bambino, con il vecchio sistema di Victrola, non è neanche la registrazione disco di 78 giri, eccetera, cantata da Vernon Dalhart, quindi sto copiando lui ancora. Quindi avete capito, preso nota, non mi mandate più mail, il coach vi ha raccontato la storia di questa canzone che ha un retroscena, un background meraviglioso. Coach, invece Milano di background ne è ancora poco, però almeno ieri ha inchiostrato una vittoria in Eurolega. Melli, partitona, un po' di fiducia per una squadra che va su e giù. Vai in altalena. Io c'ero lì ieri, ho visto i primi due quarti perché dovevo scappare via prima, però devo dire questo, ovviamente ho sentito tante critiche di queste qui, eccetera. Io ho visto una squadra molto ben schierata in difesa, e non dimenticare che sono partite senza Gentile in quintetto, che era in panchina, e Mosse in panchina, però molto ben disposto. Pian piano loro hanno letteralmente stroncato Zalgiris, con la difesa Zalgiris era letteralmente paralizzata, cioè non riuscivano a sviluppare il gioco. Hanno fatto un canestro, era 5-2 per Zalgiris all'inizio, poi spente le luci, ok, cioè li hanno letteralmente stritolati con la difesa. Con la difesa pochissimi errori, qualche piccolo errore, un taglio qui, però globalmente grande pressione, grandi accorgimenti, grandi cambi difensivi, grandi aiuti, recuperi, eccetera. E sono rimasto molto impressionato di questo. L'attacco ha molte iniziative, l'attacco non è fluido adesso come la difesa, ci vuole sempre più tempo per vedere l'attacco funzionare, e questo verrà certamente con tempo. Hai detto Melli, Melli ha fatto una partita devastante, sembrava LeBron James, okay? ha fatto un po' di tutto, ma bene anche Gentile, bene. E poi tante discusse Gerald, Carlo, Gerald è piccolo, non è esattamente un playmaker, sono il primo a dirlo, però lui è un attaccante, un mancino, un atleta iniziativo, molto rapido. Non mi piace, a me non piace, a me non piace. No, Carlo, non ti sto dicendo. No, coach, io capisco quello che tu dici, a me non è un giocatore che piace, poi lo confesso, poi magari mi piacerà, sbaglierò tutto e io ti do retta, ovviamente, ti do retta. Vediamo. Ovviamente lui deve migliorare ancora, però devo dire questo, della prima prestazione che ho visto alla prestazione ieri sera, è migliorato. Ha migliorato, è cambiato, certo, anche perché peggio non poteva andare. Coach, ti ringrazio. Ci sentiamo presto, anche perché NBA knocks at the door. Grazie Cosa Dan ciao, Peterson. Caro. Ciao. Un abbraccio, ciao. Dopo. Tutti convocati. To the side. out that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, now listen what I say, oh. Mi piace da morire, Snow. Red Hot Chili Pepper, ma mi piace da morire anche avere collegati in contemporanea due azzurri che conoscono bene le medaglie mondiali perché le hanno vinte, Manfred Mölgg e Nadia Fanchini. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. D'obbligo la prima domanda, cominciamo da Nadia. Ti piacciono le Red Hot Chili Pepper? Certo, io le ascolto fino a che sono piccola. Manfred? Mi piace, mi piace, come. Comunque ciao Nadia, eh. Ciao Andy. Allora, come state? Domanda doppia anche in questo caso, però qui comincio da Manfred perché leggo problemi alla schiena in vista di Sölden, gara di domani. Voglio intanto, sapere. Intanto siamo qua a Sölden e diciamo che sono contento di essere qua e vedremo adesso. Chiaramente da agosto ho sciato poco fino adesso e è veramente, è stata dura, diciamo così, problemi alla schiena, ha iniziato tutto da una gamba e poi dopo questa cosa ha portato avanti e ha fatto sì che ci volesse anche la schiena, però comunque al momento non sento dolore, mi ha fatto infiltrazione l'ultima settimana e adesso spero che domenica poi possa fare una buona gara, ecco. Poi vedremo. Nadia, come stai? Sì, dai, diciamo che sto bene, sono anche io ho dovuto mettermi un po' quei problemi che ho le ginocchia, però adesso diciamo che sto abbastanza bene e non vedo l'ora di entrare in gara domani. Mm. Poi dicono che lo sport fa bene, Ma come dico sempre io, lo sport fa bene la corsetta nel parco, lo sport a livello agonistico estremo è qualcosa che consuma e su questo possiamo essere tutti d'accordo, Manfred Mölgg e Nadia Fanchini, no? Ma diciamo che abbastanza ad alto livello sicuramente dopo qualche anno si sente un po' qualche... E certo. Qualche tega l'abbiamo presa, diciamo così. Sì. Diciamo così, Nadia? Diciamo così. Sì, appunto. No, infatti, purtroppo ad alto livello può succedere che ci siano qualche infortunio perché mi ho già affrontati un parecchi e purtroppo però è la nostra vita, è la voglia che abbiamo di poterci completare con questo sport, ci dà la voglia di continuare pur avendo tutti questi valori, però andiamo avanti. Adrenalina si chiama anche così, adrenalina della gara, del risultato, dell'essere competitivi al massimo. Ragazzi, medaglie mondiali, dicevo prima, voi le conoscete da vicino, le avete a casa, non so dove, però le avete. Manfred ne hai un paio, Nadia tu mi sembra una, giusto? No, Manfred ne ha tre. Manfred ne ha tre, tu ne hai due. Scusate, sì. Ho sbagliato per difetto, naturalmente. Pensieri per Sochi, Nadia? Beh, i pensieri sono alti, nel senso che ho voglia di riscattarmi perché le ultime Olimpiadi purtroppo mi sono fatta male la settimana prima e non sono riuscita a dimostrare quello che potevo. Adesso quest'anno un'altra occasione, spero di arrivarci in forma e spero di poter parteciparvi e poi... Beh, l'obiettivo e il sogno è alto, quindi speriamo di essere anche un po' fortunati. 2007, adore, medaglia d'argento nello slalom per Manfred. Dicevamo prima, ne hai tre, non so dove le tieni, ma in fondo sono cose private. Mi interesserebbe invece aggiungerne una quarta. Sì, no, tutte quante sono bellissime, sono a casa e hanno la loro storia, diciamo così. Poi qual è la più bella anche esteticamente? Quale ti piace di più? La più bella, ma ognuna ha la sua storia, ognuna è bellissima, però chiaramente quella di quest'anno in gigante è stata molto pesante, perché in gigante si aspettava da un po' una medaglia e poi io sono riuscito a raggiungerla e questo veramente è stato un grande obiettivo. Poi vedremo adesso la quarta, chiaramente è ancora lontana perché appena inizia la stagione devo vedere un po' come va tutto, però intanto sono contento che sto bene e vedremo di crescere. Come ha detto la Nadia, dobbiamo arrivare in forma, si deve arrivare in forma lì, si deve sciare bene prima in Coppa del Mondo e poi dopo le Olimpiadi si vedrà. Chiaro, la Coppa del Mondo però viene approcciata nell'anno dei mondiali ed è inutile nasconderlo, in maniera differente, no? Rispetto ad anni normali, tra virgolette, no Nadia? Beh, sicuramente la Coppa del Mondo, scusami, stavo seguendo, scusami. No, cosa stai facendo? No, stavo guardando la radio perché abbiamo una conferenza stampa. Tra quanto? Adesso ti lascio. No, no, no, figurati, no, ho sbagliato io. Sono le 15:11 e 57 secondi. Va benissimo, sono in anticipo. Bravo. Ok. No, dicevo, stagione approcciata, cioè la stagione dei mondiali è strana, vale in tutti gli sport, però viene approcciata in modo diverso, ed è inutile raccontare altre cose. Beh, sicuramente viene approcciato in modo diverso, comunque è sempre molto importante, e nel senso, io quando ci sono i grandi appuntamenti come quella dei mondiali sono sempre molto, molto carica, però cambia, i mondiali li facciamo ogni 2 anni, le Olimpiadi ogni 4, quindi sono molto più importanti e poche occasioni, mentre i mondiali nella carriera di uno sportivo ci sono quasi ogni 2 anni, quindi le Olimpiadi poi prendono più valore e poi diciamo che è proprio là, sei in cima, fare le Olimpiadi e andare a essere una persona, un atleta a livello olimpico è quello che tutti sognano di essere, chiaro, no? Almeno nei nostri L'Olimpiade è qualcosa di strano, di diverso, di meraviglioso, di ripetibile, di coinvolgente. Possiamo usare tutti gli aggettivi più belli del mondo e più patinati del mondo. Vi faccio una domanda doppia. Manfred, su chi punteresti in campo femminile tra le azzurre? Non vale Nadia Facchini, oppure vale, non lo so, vedi tu. Su chi punteresti in campo femminile per soci? Diciamo così, non vale. Ah, per soci è dura ed è difficile. Chiaramente c'è una sorella che gareggia, spero che può esserci anche lei, sì, che può far bene dopo adesso. Anche gli infortuni che ha avuto, poi a parte la Nadia, penso che hanno una squadra molto forte, possono essere veramente a un buon gran livello, ecco, poi vedremo. Nadia, puntare su una è difficile, ecco. È difficile, sì, è per questo che ti faccio la domanda, e la faccio anche a Nadia: su chi punti tra gli azzurri in campo maschile? Melg. Tra gli azzurri sicuramente Manfred, che okay, abbiamo visto in 3 appuntamenti diversi, 3 medaglie, veramente difficile, cosa quasi straordinaria, e quindi lui. Grazie, e poi Nadia. Peter, Inner, veramente la squadra dei maschi sono fortissimi, cioè, abbiamo il campione olimpico in carica, Razzoli, sì, Deville, Gross, e anche Blardone, cioè veramente i ragazzi sono forti e se stanno bene possono dimostrare tanto, e quindi guarda, non saprei, c'è proprio... Facciamo il tifo per tutti! Facciamo il tifo per... Ma sì, naturalmente, con la bandiera fuori dalla finestra. Un'ultima cosa ragazzi, Manfred una domanda per Nadia. Nadia una domanda per Manfred. Manfred, vai. Nadia, dimmi un po', cosa facciamo domenica, o meglio, cosa fai No, sabato, altro che, io penso già domenica, no, domani. Dimmi un po' il risultato di domani. Tuo? Non lo so, cioè l'obiettivo sarebbe quello delle 15, poi, anche perché non sto benissimo, non sono in formissima, però a 6:20, a questi appuntamenti, la Coppa del Mondo, bisogna arrivare pronti, anche se non lo si è, quindi cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto. Vai, in bocca al lupo. Cosa chiedi a Manfred, sì, Nadia? Io a Manfred chiedo se anche lui cosa pensa domenica, pur sapendo che so che è difficile, perché rientra comunque da... l'ho seguito molto su internet, l'ho visto in ospedale settimana scorsa, adesso lo vedo a Cancello, so che farà la gara. Devo dire, scusami, però devo interromperti, oggi mi ha portato gli sci la Nadia. La prima persona che ho incontrato sul ghiacciaio è stata la Nadia, adesso è un puro caso, ma comunque mi ha preso gli sci in mano e li ho portati, per quello vedremo. Ragazzi, vi adoro, in bocca al lupo. Okay. Ciao. Ciao, grazie. Manfred Merg e Nadia Facchini, Franco Piantelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, torniamo lunedì, ciao a tutti. Ad Abbiamo in linea uno che a centrocampo era bravino. Ma grandissimo. Maestro Luis Suarez. Ciao ciao ciao, buongiorno. Devi pensare che quegli anni lì, per due anni di fila, noi abbiamo vinto il campionato spagnolo contro il Real Madrid, che aveva vinto già quattro coppe di campione, dove giocava Di Stefano, Puskas, Gento, Amancio, eccetera. Per cui vuol dire che eravamo forti anche noi. E ai gol, e ai gol, e a calcio del Graziano Cesari, come va? Ciao, buongiorno ragazzi, benissimo. Facciamo del giornalismo d'inchiesta importante, le grandi inchieste di tutti i convocati, no? No, ma perché sei fissato con l'abbronzatura? Vedere uno bello abbronzato a me dà tanta soddisfazione, dà felicità. Non dire malo, fermati subito, non dire una stupidaggine. Top, top. No, dico esiste. Top, top. Lui. Esiste la possibilità che possa piovere nelle prossime ore a Boccarasse? Questo volevo dire. Sì, questo sì, probabilmente sì, perché c'è allerta 2. Adesso, alto momento di contaminazione radiofonica con Pierluigi Pardo, che intervisterà Davide Cassani. Tura è la corsa più importante al mondo. Ci sono corridori che si preparano una stagione non solo per essere in forma nel mese di luglio, perché vincere una tappa ti dà la possibilità di diventare famoso, non parliamo poi di chi vince il tour, perché ti cambia la vita. Era un giocatore che davano per morto. È tornato, ha fatto un assist e San Siro l'ha ringraziato alzandosi in piedi. Hasta luego! Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?